Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Parliamo di un progetto questa sera che non richiede molte premesse. Il progetto si chiama Smart Skyscrapers, cioè grattacieli intelligenti, ed è nato dalla collaborazione tra Rudin Management, la Columbia University e Selex S del gruppo Finmeccanica, in rappresentanza del quale in linea con noi c'è Mattia Cavanna, che è responsabile nuove iniziative di Finmeccanica e coordinatore del progetto D-Boss, che è nello specifico l'oggetto di cui parleremo questa sera. Buonasera Cavanna. Buonasera. Allora, D-Boss serve a rendere intelligenti i grattacieli, abbiamo detto. Molto rapidamente una descrizione generale, di che si tratta? Si tratta di un sistema software, un applicativo che integra tutti i sottosistemi che costituiscono le operazioni di un edificio complesso come un grattacielo. I sistemi sono sicuramente quelli energetici, tutti quelli elettromeccanici, di condizionamento, ventilazione e quant'altro, quelli però anche di gestione degli accessi e della presenza di persone nell'edificio, gli ascensori, la parte di sensori smart che possono esistere per recuperare altre variabili e in futuro anche rinnovabili, storage energetico. E questi sono i sistemi interni. Quelli esterni sono i sistemi di simulazione, predizione meteorologico e di rapporto con le utilities, quindi gestori di servizio energetico, acqua, eccetera. Fornitori di queste. Ecco, ma perché integrare tutto questo? Perché questa è un pochettino la domanda, no? Perché devo mettere insieme il sistema che fa il controllo ingressi con il sistema degli ascensori, con il sistema dell'energia? Ci sono delle relazioni o è semplicemente una questione di avere un software unico, cosa che rende tutto più comodo, d'accordo, ma niente di più? No, è evidente che esistono delle correlazioni tra energia, sicurezza, comfort, aspetti ambientali, che sono molto forti. Mettere insieme questi sistemi in un unico cruscotto che uno ha nel proprio palmare serve per rispondere a situazioni di emergenza, per cui facciamo un esempio. Ma per cui a fronte di un blackout che sta per arrivare, riportare gli ascensori al piano per far evacuare le persone unisce la sicurezza energetica, il comfort e quella, diciamo, fisica, no? Ecco, diciamo così, se scoppia un incendio, no? A un certo punto c'è il sistema antincendio che se ne accorge. Automaticamente è possibile staccare l'energia elettrica o magari la fornitura di gas in modo che poi non esplodano tubi, certo, o cose del genere? Sì, il sistema fa proprio quello di registrare tutti, diciamo, gli aspetti delicati o le emergenze di un grattacielo e mette in evidenza su cosa interagire. Può farlo in automatico, ma deliberatamente in questo momento il sistema lascia all'operatore prende la decisione alla persona, all'uomo. Cioè volete che nella catena di decisioni ci sia un anello umano, insomma, che può metterci qualcosa in più, no? Rispetto agli automatismi, questo è il punto, mi sembra. È necessario, perché come facciamo in altri settori di sicurezza o in aeronautici, tipicamente c'è un momento in cui la decisione della persona vale di più che un automatismo che rischia di essere una black box, una scatola nera. E a volte magari, certo, in alcune circostanze specifiche invece può essere la decisione sbagliata, quella che 99 volte su 100 invece è la decisione giusta. Ecco, voi parlate anche di un sistema che impara col tempo. Che cosa intendete? Sì, la collaborazione con la Columbia University prevede che sia stata brevettata una logica di analisi degli eventi per trovare delle correlazioni che permettano di dare anche degli spunti su come migliorare l'operatività di questi grattacieli. Mi spiego meglio? Sì. A fronte per esempio della ondata di calore di metà luglio scorso, il sistema ha visto che c'era una rampa di calore atteso che ha permesso all'edificio di autoregolarsi staccando dei carichi, avendo peraltro benefici in termini di riconoscimento in bolletta, quindi dei bonus derivanti dall'interazione col distributore. Cioè, perché l'ondata di caldo ha causato un aumento del consumo di condizionatori, immagino, della città. Parliamo di New York? Sì, esattamente. Ok, e quindi l'edificio ha reso disponibile un po' di energia autoriducendosi i carichi, e questo è riconosciuto evidentemente dal tipo di contratto che ha questo edificio col suo fornitore di energia, in questo caso, giusto? Corretto. D'accordo. Altri esempi di questo tipo? Che cos'è che impara col tempo? Non so, gli afflussi? Sì, impara sicuramente gli afflussi di persone, il consumo di energia e può dare raccomandazioni, per esempio, legate a cercare di evitare di attivare i sottoimpianti di un grattacielo che ospita 4.000 persone in media. La domenica? In maniera, troppo anticipata, ma andando a colpire, a trovare esattamente il livello termico necessario per garantire comfort e sicurezza agli occupanti. Grazie, grazie Cavanna. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.